Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, se volete chiamarci in diretta, siamo qui fino alle 19 anche senza campionato, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi, e potete seguirci anche su Twitter @ tutti convocati. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte e Valeria Bernardi dietro il vetro in regia. Pier, ci sei? Ci sono, come va? Non benissimo, io vado in crisi d'astinenza quando la domenica non ci regala il campionato. Tu? Non se ne può più, poi questo giro veramente abbiamo queste simili amichevoli, quindi una roba proprio di bassissimo contenuto, lo so, resistiamo, fortunatamente si gioca già venerdì, quindi sì, siamo almeno 5, dai. Resistiamo e consoliamoci, perché domenica prossima a quest'ora sapremo tutto su Roma-Napoli, sapremo tutto su Fiorentina-Juventus, sapremo tutto sul Milan, sul suo San Siro aperto malgrado tutto, sapremo insomma tutto su una giornata che si annuncia, secondo me, già importante nella storia di questo campionato. Però noi siamo qui anche oggi, anche senza calcio, siamo qui fino alle 19, 800 24 00 24, abbiamo grandi ospiti, non parleremo solo del pallone, parleremo anche di pallacanestro, dei motori, insomma parleremo di tantissime cose. Pier, sai che cos'è la prima pagina? Lo so, però dilla tu. Allora, prima pagina. A volte guardare ad Oriente fa miracoli, a volte capita di riscoprirsi grandi, a volte no. Niente miracoli, niente buone notizie questa mattina da Est, in una domenica senza calcio e nella quale speravamo di aggrapparci a Rossi e alla Rossa. Speravamo di non trovarci ancora una volta qui a celebrare un tedesco semplicemente inarrivabile anche sotto il sollevante. Ichiban, unbelievable. We stay there, patient, great job, thanks a lot for bringing the car back, unbelievable. You're the best team in the world. Thank you very much, guys, I love you. I punti di distacco di Alonso da Vettel adesso sono 90, mondiale finito, anche se non ancora assegnato, perché per quello bisognerà attendere l'India tra 2 settimane, tutto però è già scritto. Però dobbiamo migliorare, no? Anche se sappiamo che le macchine per tutti rimangono più o meno le stesse per le ultime 4 gare, dobbiamo trovare qualcosa in più per cercare di essere sul podio in tutte le gare possibili. Traditi dalla rossa, speravamo in Valentino Rossi, partiva secondo sulla pista che a noi ricorda il Sitch. Niente da fare, bello il giro di pista alla fine per salutare Simoncelli, bello e malinconico. Un po' come sentire Valentino, Biaggi e Capirossi parlarsi come reduci al bar, parlare di come era bello un tempo, nemmeno una vita fa. Nei primi anni 2000 noi eravamo i vecchi Lorenzo Marquez Pedrosa, no? E per l'Italia era bello, era divertente, ecco, quindi sono comunque dei grandi ricordi, delle grandi battaglie sia con Biaggi che sia con Max che con Loris. Era bello davvero quando gli spagnoli eravamo noi, e non solo con le moto. Oggi siamo qui che aspettiamo l'ultima di Prandelli nel girone verso il mondiale. Siamo appesi al ranking e ai capricci dello stomaco di Balotelli. Ci sarà oppure no? È un simbolo oppure no? Questa è la sua nazionale o no? È solo utile o indispensabile? Finché Mario sarà in nazionale, se non è infortunato o squalificato, sarà sempre Italia di Balotelli per tutti, per la stampa, per il popolo, diciamo così. Poi le alternative le abbiamo sempre avute, abbiamo fatto due grandissime partite senza Mario e la Confederation, e si parlava dell'assenza di Mario e non del lavoro che ha fatto Girardino. Parole al vento, la domenica è quasi finita, poi sarà una lunga corsa, tutta d'un fiato, a un altro fine settimana, questo sì, ricco di gol, di sogni, di suggestioni e di speranze. Mamma mia, questa non è la Roma, questo è il sogno! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Napoli in vantaggio! Napoli in vantaggio all'ultimo assalto! Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta. Pier, è da questa mattina, ti confesso, che mi interrogo su chi abbia meno torto tra la Gazzetta dello Sport, che ha detto che Balotelli è il simbolo anticamorra, e Balotelli che se l'è presa, non so se l'hai letto su Twitter. Sì. Tra l'altro mi fare autopromozione, domani sera le faremo una puntata speciale di Tiki Taka su Italia 1 in seconda serata, proprio per celebrare il valore del calcio contro la criminalità e come strumento di libertà per le persone. Avremo le interviste esclusive, perché perché il calcio ne ha salvati tanti dalla strada brutta, perché è un grande strumento di aggregazione sociale, e la giornata di domani sarà una giornata speciale. Io non so se Balotelli sia o meno un simbolo anticamorra, mi sembra onestamente che caricare i giocatori un valore di un certo tipo sia sempre comunque sbagliato. I giocatori giocano, lo dice la parola stessa, giocano, attraverso il gioco esprimono se stessi, esprimono un tipo di vita comunque fortunata, al di là di quelle che possono essere le pieghe psicologiche individuali di felicità o di disperazione che poi si possono annidare, ma è comunque sempre un percorso bello e virtuoso. Quindi non lo so se è un simbolo anticamorra, onestamente penso che non gliene importi neanche tanto di esserlo, però quello che domani farà la nazionale sarà qualcosa di molto importante. Sì, quella di domani è un appuntamento certamente bello da sottolineare, fai bene anche tu con Tiki Taka, fa bene Prandelli a tenerci a questo tipo di appuntamenti. Io oggi sono rimasto un po' così quando ho letto la Gazzetta dello Sport, che in pratica scrive che la vera punizione del codice etico per Balotelli non è tanto non essere stato convocato, e di fatto Prandelli l'ha chiamato, quanto adesso essere tenuto in nazionale, anche se probabilmente nemmeno contro l'Armenia lo vedremo. Poi daremo anche le ultime da Coverciano. Oggi in realtà Balotelli si è allenato, ha fatto la partitella, qualche minuto potrebbe essergli riservato, e poi con questa sottolineatura che in realtà quel treno, il treno che sta portando proprio in questi minuti la nazionale a Napoli, per Balotelli rappresenta anche un po' l'ultimo treno, perché in realtà dietro l'atteggiamento di Prandelli c'è anche il fatto che non è scontato che Balotelli salga sull'aereo per il mondiale. Io ci credo pochissimo, però davvero non mi piace questo clima da Balotelli contro il resto del mondo. Balotelli su quell'aereo ci salirà. Qui il punto è che su Balotelli c'è un senso of urgency, come direbbero gli inglesi, no? Un senso d'urgenza che non c'è su altre storie o su altri giocatori, nel senso che Balotelli avrà mille altre possibilità nella sua vita, so che ogni giorno ha bisogno di dimostrare qualcosa per potersi sentire vivo e per poter essere accettato e gradito all'attenzione pubblica, perché comunque è un personaggio di un certo tipo, quindi ogni giorno deve dimostrare qualcosa. In realtà avrà mille altre possibilità, è come se c'è qualcosa che ti va tanto di ottenere nella vita, non lo riesci a ottenere ogni giorno e ne hai bisogno, e poi magari lo otterrai tra un po', lo otterrai tra 2 anni, tra 3 anni, perché ci saranno dei tempi che sono esempi normali. È chiaro che insomma Balotelli di errori ne ha fatti tanti, ha una carriera giovane, ha un grande talento, però ogni giorno siamo qui a chiederci se si è svegliato con la luna giusta o sbagliata, se si è comportato bene oppure no, quando invece meriterebbe di avere forse un periodo sabbatico, oppure forse non lo merita, insomma. Però voglio dire, comunque di occasioni secondo me nella carriera ne potrà avere ancora tante. Sì. Il punto è che ogni giorno noi siamo qui a spaccare il capello e chiederci se si comporta bene o si comporta male. Che mi sembra che anche lui non faccia nulla per evitare di critica e di analisi. Perché come mi si faceva notare giustamente ieri sera, se lui fosse un giocatore dal punto di vista psicologico perfetto varrebbe 60 milioni e probabilmente non giocherebbe neanche in Italia, diciamocelo apertamente, nel senso che l'investimento che ha fatto il Milan l'ha fatto proprio perché è puntato su una scommessa, ha puntato sulla possibilità di poter ritrovare un giocatore di un certo tipo, e la scommessa qui chiaramente non è tecnica o fisica, perché è un fisico pazzesco e perché comunque ci sa fare coi piedi, la scommessa è tutta psicologica, per cui è chiaro che se Balotelli è costato relativamente poco, il Milan se l'è potuto permettere, perché evidentemente è un giocatore preso come una scommessa, questa scommessa non è ancora completamente riuscita, riuscirà in maniera compiuta? Non lo so. Io sono a Roma in questo momento davanti a un negozio di magliette tarocche, ci sono Milito, Totti, Pirlo e Balotelli, che Balotelli c'è sempre, sì, perché è così, insomma, è sicuramente uno dei pochi, Guain, pochi volti conosciuti che resta al nostro calcio. C'è anche Higuain, se noi napoletani a partire da Giorgio De Luca si offendono. No, c'è Higuain con la maglia camouflage, quella che non piace a nessuno tranne che a me piace la maglia, no, la maglia a me non piace davvero niente quella... no, ma io ho una 10% da coatto che ama queste cose, quindi la maglia nessuno si offenda, è una maglia un po' chiassosa, diciamo, non è molto tradizionale, quindi io l'adoro. 800240024, vi piace la maglia del Napoli? No, scherzo, a parte la maglia del Napoli, cosa ne pensate? È un bel sondaggio, però possiamo farlo, vi piace o no la maglia, quella mimetica, avete presente la terza maglia del Napoli? 800240024, ma per dirci anche cosa ne pensate di Balotelli e delle tante altre cose che diremo in queste 2 ore. Siamo al traffico, però restate qui perché poi c'è una bella sorpresa. Traffico. tutti convocati. 800 24 00 24. Sapete che non ho ancora capito che cosa ne pensate di questa vicenda di Balotelli, simbolo della nazionale o no. Magari fra qualche minuto leggiamo anche i vostri messaggi. Adesso però cambiamo. Pier, ci sei? Ci sono, siamo qui prontissimi. Abbiamo un grande ospite, no? Lo conosci Vincenzo Montella? Lo conosco, sì. Buon pomeriggio, mister. Buongiorno. Buongiorno a lei. Domenica senza calcio. Io glielo dico, ma l'abbiamo detto in apertura di trasmissione anche con Pierluigi Pardo. Noi siamo sinceramente in crisi d'astinenza. Voi come la vivete? No, in effetti credo che ogni tanto sia opportuno per noi addetti al lavoro riposarci, trascorrere una domenica anche in famiglia con i bambini. Non più di una, però sì, una ci può stare. Perché noi facciamo fatica ad alzarci le domeniche mattina che non c'è il campionato. Siamo sinceri, va bene la Formula 1, va bene la MotoGP, va bene la pallacanestro che oggi parte, avremo modo di parlarne, però il campionato è tutta un'altra cosa. Ho letto questa mattina sui siti internet che per la Fiorentina c'è la bella notizia che torna Cuadrado in fretta, a proposito di nazionali. È una buona notizia? Sicuramente torna un po' prima perché è squalificato un paio di giorni prima, quindi sicuramente avrà modo di recuperare prima dalle fatiche e soprattutto dal fuso orario, che quando appunto vanno a giocare in Sud America impiegano qualche giorno in più per smaltire. Pier, perché io me li immagino questi allenatori che quando ci sono le soste delle nazionali sono lì a consultare tabellini, siti in lingue straniere per capire se qualcuno si è fatto male, se c'è qualche affaticamento. Magari si sentono pure un po' soli perché insomma non hanno esattamente tutto il gruppo. Ma io volevo chiedere al mister se c'è una spiegazione, se se l'aspettava così questa partenza, se c'è un po' di delusione perché comunque qualche punto in meno rispetto anche forse a quelli che la Fiorentina meritava, onestamente sicuramente c'è, e che spiegazione si dà? Mi sembra varie situazioni, vari episodi, forse un po' di deconcentrazione, questa è la chiave? No, io penso che adesso il campionato della Fiorentina sia positivo, considerando anche l'Europa League, considerando anche appunto quello che è successo e tanti infortuni traumatici e non più che muscolare, quindi credo che sia in linea con le aspettative. Naturalmente c'è stato un po' di delusione, un po' di amarezza per un paio di partite dove abbiamo lasciato dei punti per strada prevalentemente per colpa nostra. Tra l'altro, se non sbaglio, mister, avete un punto in più rispetto all'anno scorso, quando si parlava di Fiorentina grande rivelazione, giustamente. Io ho trovato personalmente alcune critiche anche ingiuste, si continua a scrivere questa non è la Fiorentina di un anno fa, eppure i numeri dicono questo, e in più c'è il peso dell'Europa League, ci sono gli infortuni che lei ha ricordato. C'è qualcuno che ha un po' calcato le mani nelle critiche? Ma no, ma io credo che faccia parte del nostro mestiere accettare soprattutto gli eccessi, ma ci sono state anche tante critiche positive esagerate, quindi io questo non... È anche un motivo di crescita, se dopo un pareggio con la Lazio, un trasferto, sofferto, si dice che la Fiorentina è sotto, no, vuol dire che la squadra è cresciuta molto, quindi significa è un vanto. Non è assolutamente non deve essere presa come una critica negativa. Pier, qual è il limite, se ce n'è uno, per Pepito? Insomma, è tornato e voi avete, meritate tanto onore per questo, ci avete creduto anche in un momento nel quale ci potevano essere dubbi sulla sua tenuta fisica. Insomma, al 100% che giocatore è? In che categoria lo mettiamo? Fra i grandissimi? Ma per me è un giocatore straordinario, gli manca ancora un po' di continuità, ma questo ci sarà solo il tempo a dargliela. E per me è un giocatore top perché ha i movimenti da prima, cioè il gol della prima punta, e i movimenti del giocatore che si adatta al compagno di reparto che gioca per la squadra, quindi un giocatore eccezionale. Ma a che punto è? Lui è più forte Montella di qualche anno fa? Com'è? È più forte lui o più forte tu qualche anno fa? E siete diversi? Ma lui sembra che sia più forte, però lo deve ancora dimostrare. Ma a che punto è del percorso di recupero, Rossi? No, ma lui sta bene, non ha saltato l'allenamento. Naturalmente quando non giochi da 2 anni, per 2 anni ci vuole la continuità, il ripristino della fatica della partita, che te lo dà soltanto il tempo. Quindi, però per il resto lui è completamente... e riesce a svolgere tutti gli allenamenti con la squadra. Lei lo vede salire sull'aereo per il mondiale a giugno in Brasile? Io credo non sono un GT, non lo voglio fare, Fratelli lo conosce prima di me, credo che se lui sta bene, dimostra di star bene, non, sicuramente un posto sia preso sia suo, insomma. Pier, lo sai che domenica prossima a quest'ora sapremo già tutto su Fiorentina-Juventus. Tu che idea ti sei fatto, ti stai facendo di questa partita? Poi ovviamente lo chiediamo al mister. No, io chiediamo a lui direttamente, perché insomma immagino che sia... è una partita complicata, difficile, perché la forza della Juve è proprio quella di riconoscere le partite difficili e a cui tengono particolarmente, e quindi sicuramente non saranno impreparati sotto l'aspetto nervoso, perché sono più abituati di noi a fare partite di questo tipo. E di noi della Fiorentina, però noi vogliamo provare a vincere perché ci teniamo, perché vogliamo recuperare in classifica, perché sappiamo che la città di Firenze ci tiene particolarmente. Ma lei la vede questa Juventus meno affamata rispetto a 2 anni fa, rispetto all'anno scorso? È un'altra delle cose di cui in questo mese si è scritto e non poco. Ma io credo che la tenacia della natura sia la stessa, perché mi sembra che sia la stessa. Naturalmente c'è il fatto che poi anche le altre squadre si rinforzano, a volte trovi degli avversari che da un po' più forti rispetto all'anno prima, mi riferisco probabilmente a Napoli ma anche all'Inter, quindi i campionati poi sono diversi uno dall'altro. Io vedo sempre la Juve fortissima che comunque avrà qualche avversario un po' più competitivo rispetto all'anno scorso. Pier. Mister, quando qualche anno fa sei stato sulla panchina della Roma, te lo saresti aspettato che saremmo arrivati con un Totti così a settembre del 2013, ottobre del 2013, io ormai sono bollito, ho perso un po' il senso del tempo, però ottobre 2013? Guarda, io ho imparato a capire Totti come gioca con il tempo, e quindi lui non ti sorprende mai, perché anche se magari fisicamente non può essere quella di 7-8 anni fa, ma l'intelligenza calcistica è una tecnica troppo superiore agli altri per non farla vedere. Mister, questa è una settimana in cui si è parlato molto anche di cose extra calcio, razzismo, cori, stadi da chiudere, da riaprire, posso sapere lei che opinione si è fatto? Ah, io credo che sia naturalmente un tema molto complicato, molto delicato da parlare, perché però magari ecco, provo a spiegarlo. Io credo che qualcosa vada fatto, che si debba fare qualcosa, che tutti ci dobbiamo impegnare per cambiare le cose, però francamente trovo ingiusto chiudere uno stadio perché magari una parte della tua tifoseria è in trasferta, ha cantato un coro razziale o territoriale, che è più o meno la stessa cosa, io sono napoletano. Però è ingiusto che paghino magari chi ha fatto i tifosi leali, i tifosi corretti, che magari va allo stadio portando la propria famiglia e i propri bambini, che magari dopo aver comprato già l'abbonamento, lo trovo un danno troppo eccessivo per le persone per bene. Ma lei da napoletano l'ha ricordato quel coro lì da fastidio, quello con le rose, terremotati, quello di cui spiace anche ripeterlo, eh? Sono abituato a sentirlo. Da fastidio, ma non ho avuto, come dire, compensi psicologici nel mio percorso di vita. Danno fastidio, ma però sono gravi come il bu che si fa a volte a livello, insomma, per il colore della pelle, e quello più o meno la stessa cosa. Però io credo, ripeto, che trovo eccessivo che si debba chiudere uno stadio perché c'è una frangia di persone, non so se tifosi, che magari si divertono in questo modo. Pier. Quelle tre lì davanti che corrono così tanto in maniera anche un po' imprevedibile, perché insomma fra Juve, Napoli e Roma hanno perso 4 punti in 3 fino a questo momento, quindi pochissimi, cambiano un po' gli obiettivi? L'obiettivo è la Champions League sempre e comunque, oppure potrebbe anche cambiare la stagione, magari l'Europa League, che state facendo fra l'altro benissimo, potrebbe diventare uno sbocco stimolante? Ah, noi non abbiamo molti limiti, non bisogna fare meglio di noi stessi, il campionato è iniziato adesso, sappiamo benissimo che l'Europa League ti porta via energie fisiche e mentali e soprattutto punti, ma noi vogliamo competere su tutte e 3 fronti, ci sarà poi pure la Coppa Italia e quindi vorremmo onorare tutte e 3 le competizioni, e questo comporta lasciare qualcosa per strada, ma questo non ci spaventa, insomma, quindi l'importante è fare provare a fare del proprio meglio su tutte le competizioni. Mister, fra un minuto la lasciamo. Pier, io ho un sogno, però, una settimana da Fiorentina-Juventus. Noi l'abbiamo parlato tante volte in queste settimane. Fiorentina-Juventus è una partita particolare anche per la rivalità che c'è fra due città, due tifoserie. A me piacerebbe tanto che Montella, una settimana da questo Fiorentina-Juventus, facesse un appello ai suoi tifosi. Noi non li rivogliamo sentire, ad esempio, i cori sull'Eisel o leggere striscioni, cose che abbiamo visto anche l'anno scorso, ma storicamente in tutti questi anni. Mister, ce lo fa questo appello? Che il tifoso della Fiorentina sia civile come sempre. Io sinceramente non vorrei essere impreparato, ma io l'anno scorso ho assistito a un Fiorentina-Juventus dove c'è stato il massimo della civiltà da parte del tifoso della Fiorentina e di quelle della Juventus. Naturalmente non si può privare un tifoso di uno sottotono, naturalmente uno sottotono quanto come tale, naturalmente, senza esagerazione. Ma anche l'anno scorso ho assistito a una partita dove di grande correttezza campo si disfatto. Piero, salutiamo? Sì, chi vince Roma Napoli? Come finisce? 1x2, diciamo la schedina come una volta. Non lo so, secondo me è una partita aperta veramente, perché sono squadre a cui piace giocare a viso aperto e non senza tanti calcoli, quindi si sta veramente tutto. Ma è una partita a scudetto? No, ma secondo me si parla troppo di, in generale, di scudetto ad ogni partita. È una partita di alta classifica, ma siamo solo all'inizio. Grazie, mister. Va bene. Grazie. Ciao. Grazie Vincenzo Montella. Pier, resta lì però, abbiamo la pubblicità, poi torniamo anche su Balotelli. Hai visto che bravi? Abbiamo parlato 10 minuti con Montella senza nominare Mazzarri. Hai visto? Fenomeni, fenomeni. Quante classi. Tutti convocati. 800 24 00 24, se volete chiamarci in diretta. Pier, sei convinto anche tu che, come Montella, che Roma-Napoli non sia una partita a scudetto, che è troppo presto, che la Juventus è ancora più forte, eccetera eccetera eccetera? Io penso che la Juve sia la favorita, nonostante tutto, non fosse altro perché è la squadra più abituata a vincere in questi anni, quindi a parità più o meno di classifica e di valore, se devo prenderne una prendo lei. Però penso che Roma e Napoli fin qui abbiano fatto benissimo e che quasi, per come ha giocato la Roma, per dirti, sia quasi stata sfortunata di avere solo 2 punti di vantaggio. Ma tu pensa, Pier, che impatto avrebbe se il Napoli vincesse a Roma venerdì sera? Il Napoli secondo me è grande favorita, la vera favorita per lo scudetto, l'ho detto anche un mese fa. Pensa sì. Che impatto avrebbe? Sì, anche se vincesse la Roma avrebbe un grande impatto. Cioè, io credo che sia una partita che ha un grande valore anche psicologico, forse soprattutto psicologico, perché parlare di sfida scudetto decisiva all'ottava giornata fa abbastanza ridere, soprattutto in una situazione di classifica come questa dove non è che ci sono delle distanze enormi. Secondo me il vero verdetto possibile, potenziale, che ha dato il campionato in queste prime 7 giornate è la Champions. Cioè io vedo le squadre dietro in difficoltà. Prima appunto Vincenzo ci parlava del fatto che la Fiorentina non è in grande, non è una brutta partenza, però io penso che il cuor suo si aspettasse qualcosa di più. L'Inter comunque è uscito un po' ridimensionato dopo la sconfitta con la Roma, sta facendo bene ma è dietro, il Milan neanche a parlarne, quindi ecco, questa prima voragine tra le prime tre e le altre è una cosa interessante, siamo all'inizio, però questo potrebbe essere una tendenza confermata dal campionato. Sullo scudetto onestamente fare verdetti alla 7ª giornata o all'8ª mi sembra complicato. Sentiamo gli amici da casa. 800 24 00 24. Riccardo, Livorno. Sì, buonasera a tutti, signori. Allora, io lanciavo una piccolissima, modesta provocazione, però rispetto alla quale vorrei magari il vostro parere. Io non credo che in squadre non solo di calcio, quindi nell'ambito dello sport professionistico, non esistano figure quali mental coach, cioè preparatori appunto sì, mentali, no? I motivatori, una volta si chiamavano motivatori, perfetto. Adesso esatto. Li chiamiamo mental coach, ma è più o meno credo la stessa cosa. Prego Riccardo. Esattamente. Io penso quindi, se siete d'accordo con me, che ci sia in modo sotterraneo una speculazione da parte di coloro che possono in qualche misura trarre vantaggio da questo, cioè mi spiego meglio, qualche organo di stampa, qualche sponsor, qualche altra struttura che guadagna dallo speculare sugli atteggiamenti errati dello sportivo. Voi pensate veramente che una squadra che investe milioni in atleti, che quindi da un certo atteggiamento sa che può arrivare all'attingere delle risorse, che porta delle azioni e quindi a dei risultati. Voi pensate, io se fossi presidente di una squadra di calcio non mi preoccupo di tenere a bada l'atteggiamento. Sì, ma c'è Riccardo, non si riesce, ragazzi, non ci si riesce. Riccardo, c'è il mental coach di Balotelli. A me sfugge, Pier, scusami, non riesco a capire chi potrebbe avere dei vantaggi a speculare sulle balotellate, su quel salto mentale di qualità che evidentemente Balotelli non ha ancora fatto. No, e soprattutto se le società che spendono soldi importantissimi negli ingaggi dei giocatori, nei cartellini dei giocatori, figurati se non potrebbero mettere a libro paga 50 o 100 mila euro l'anno per trovare le persone adeguate per risolvere i problemi. La verità è che certi problemi non li risolvi, perché certe teste sono più complicate, sono più sfuggenti, ed è bello così. Cioè, adesso che abbiamo iniziato questa discussione su questo, è bello così, e non vuol dire che io dica che Balotelli fa bene. Balotelli stessissimo fa male, così come in maniera cioè molto diversa, perché sono molto, molto diversi. Anche Cassano ha fatto un sacco di errori nella sua vita, però la bellezza è questa, la bellezza è proprio questa qui, altrimenti avremmo uno spettacolo di plastica dove gli atleti riescono a controllarsi. Invece quando uno è felice o disperato, o triste o confuso, o folle o pazzo, viene fuori e fa bene. A proposito di Cassano, è la vita. A proposito di Cassano, Parabi ha detto qualche minuto fa: Prandelli chiama tutti tranne me, non capisco. Evidentemente non si rassegna. Ma del resto ne parlavamo con Donadoni domenica scorsa. Non si rassegna ed è un bene per il Parma, ed è anche giusto che sia così. Poi io torno sulla mia opinione che le porte per Cassano, le porte della nazionale, sono non chiuse, sono sbarrate. Da lì non si passa più. Ma lui ci crede ancora. Sa che è difficile, non capisce perché in un anno e mezzo non sono arrivati neanche segnali, insomma, al di là di, credo, un messaggio per la nascita del suo secondo figlio che è stato fortemente apprezzato. Ma insomma, Cassano salta la prima amichevole della nazionale l'anno scorso dopo l'europeo, quindi parliamo dell'agosto del 2012, la salta d'accordo con Prandelli, d'accordo perché aveva fatto poche vacanze, era un giocatore già provato, insomma, aveva fatto l'europeo, aveva avuto quel problema al cuore e viene deciso di non impiegarlo, e da quel momento in poi si interrompono i rapporti. Quindi io credo che lui ci speri ancora, insomma. Poi penso che nelle prossime ore lo sentiremo, magari anche già domani sera a Tiki Taka, e capiremo il suo punto di vista su tante questioni. Capiremo se è vero e quanto è vero che ci crede ancora. Andrea da Bologna, buonasera. Intanto saluto anche Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Buonasera, ciao, direttore. Ciao, buonasera, ben trovati. Andiamo prima però a Bologna, Andrea. Sì, buonasera. Eccoci. Allora, faccio una premessa. Io sono di quei tifosi appassionati di calcio che non porterebbe mai proprio figlio allo stadio, perché trovo certi cori insopportabili. Apprezzo la vostra conduzione, ma mi sono sentito telefonare dopo che ho sentito l'intervista a Montella, sì. Ovvero... lei le ha fatto giustamente la domanda se la sente di condannare, fare un appello perché non vengano fatti certi cori tipo quelli sulla Isel, cose insopportabili, sì. Sono morte 40 persone. Ecco, perché non insistere un po' di più? Perché poi Montella ha glissato, Montella ha evitato la domanda, Montella non è in grado di fare un appello ai propri tifosi e dire ma nessun protagonista del calcio, caro Andrea, è in grado di farlo in questo momento. Ci abbiamo provato con Mandorlini e so che la cosa poi, grazie anche al nostro ottimo ufficio stampa, è finita anche sui giornali. Mandorlini ha detto viva l'Italia, sì. Tutta, però insomma, ecco, io adesso non me la sento di dire che Montella abbia glissato, però voglio prendere la parte sana, secondo me, del ragionamento del nostro ascoltatore. Cioè, si può fare di più, si può essere più espliciti, e questa cosa la si può fare soltanto tutti insieme. Se i protagonisti di questo gioco tutti trovano il coraggio di andare avanti, di dire le cose con chiarezza, e poi alla fine, secondo me, molti fenomeni si risolvono, insomma, perché Andrea, io non so se l'abbiamo convinta, noi continuiamo a farla quella domanda, però io le do come paradigma, come paragone, come pietra di paragone, l'imbarazzo ad esempio con cui Allegri il giorno di Milan-Sampdoria parlò dell'irruzione degli ultra a Milanello la sera prima a raccogliere la solidarietà ed erano squalificati, la curva sarebbe rimasta chiusa per i cori contro i napoletani. C'è una certa difficoltà, prendiamo la parte sana, comunque Montella ha detto: mi auguro che i tifosi della Fiorentina siano civili, io mi auguro che tra una settimana a quest'ora saremo qui a parlare di calcio, a sentire Conte, Montella, e non a discutere di cori, di striscioni deliranti sull'Eisel o cose simili. Spero che almeno questa sia l'eredità che lascia questa settimana Matteo Marani. Ah sì, sai, io credo che si sia un po' scaduto nella demagogia su questa vicenda. Con le curve, io credo che il calcio italiano ci debba fare i conti, però in maniera seria, cioè non lavandosi la coscienza i club con 200-300 abbonamenti regalati a stagione, ma cercando di portare avanti invece una politica diversa, insomma, di sensibilizzazione, perché poi se tu vai nell'arcipelago delle curve, ci trovi anche delle parti sane, non sono tutti necessariamente delinquenti, cioè c'è anche chi durante la settimana ha una vita normale, socialmente normale, e poi è tifoso ed è tifoso di curva. Con quelli, siccome si può e si deve parlare, ti porto come testimonianza: in questi anni ho partecipato ad esempio ai mondiali antirazzisti, non li organizza la UEFA, li organizzano i tifosi delle curve, quindi c'è qualcuno che si è mosso, che si sta muovendo per contrastare questo fenomeno, che poi, se vogliamo contestualizzarlo tutto, non è solo delle curve, purtroppo, cioè che questo sia un paese che ha segnali di intolleranza, di difficile, come dire, anche senso patriottico comune, non lo scopriamo da oggi, non lo scopriamo solo nel contesto calcistico. Secondo me mettersi, come dire, in questa posizione fortemente repressiva, fortemente di contrasto, rischia soltanto, questo è il pericolo grosso, di acuire e di rendere ancora più forti le frange più estreme del tifo. Io sono perfettamente d'accordo con questo ragionamento, veramente sono, mi ha tolto la parola di bocca. Io penso che le generalizzazioni siano sbagliate, ricordo che a Roma Dinamo Kiev, tanto per fare il primo esempio mi viene in mente, il famoso accendino a Frisk venne tirato dalla tribuna d'onore. Ora chiaramente è stato quello un episodio, forse se guardiamo statisticamente l'incidenza dei problemi è sicuramente di più in curva, ma questo non basta per autorizzare l'idea che in curva ci siano solo delinquenti e in tribuna solo persone per bene. Io credo che in assoluto le responsabilità penali siano individuali, e uno Stato che ha di contro, no? Ecco, che ha la forza di risolvere i problemi, va e colpisce i violenti, se ci sono, e fa in modo però che vengano colpiti soltanto i violenti e gli altri no. Quindi mi rendo conto che poi, come ci diceva qualche giorno fa lo Tito proprio a Radio 24, questa fattispecie di cui parliamo, cioè quella dei bu, quella dei cori razzisti o discriminatori, è complicatissima, perché se si possono avere dei filmati di determinate cose violente che vengono compiute, è più difficile avere dei filmati o delle registrazioni audio e riuscire a risalire. È difficile avere la prova TV personale, la prova radio per chi ha urlato delle cose infami. Detto questo, non è in quel modo lì criminalizzando tutto il mondo ultra o tutto il mondo delle curve, se non è che c'è il problema. Anzi, forse coinvolgendo la parte sana delle curve si riesce anche, non lo so, la butto lì, si riesce forse anche a smidare questi problemi, a distinguere i buoni dai cattivi, molto semplicemente, a distinguere chi ha voglia di fare il protagonista, di creare casino e basta, con le persone che invece hanno un modo, un certo tipo di spirito per vivere la partita in curva, ma che non farebbero male a nessuno. Sì, tu hai citato lo Tito, Pier, magari adesso lo facciamo anche risentire. Io ho il timore che da questa settimana si esca in realtà con il classico passetto indietro che alla fine riporta tutto al punto d'origine, e sarebbe sbagliato. A me era piaciuto lo Tito di lunedì, bello carico, e secondo me anche con gran parte di ragione. Lo Tito, se una tifoseria, tra virgolette, o un gruppo di tifosi vuole fare in maniera che di impedire alla gente di andare allo stadio, e basta che fa 50 gori ed è finita la radio. Chiaramente che la norma non va applicata così che ti semplifici come è stata impostata, perché crea solo danni, diventa un boomerang invece che un vantaggio. È delirante perché ancora si consente a questa gente di poter svolgere questo ruolo. Qui io ho detto anche in un'intervista ultima, qui non c'è una categoria professionale di tifosi, né c'è sulla carta d'identità professione di voto. L'ho detto, tifoso delinquente o delinquente tifoso. Parliamo di delinquenti tifosi, questa gente si ritrova nei cortei che vengono fatti degli anti-DAP, degli anticontestatori della scuola, sono sempre le stesse persone, passano dallo stadio alla strada, e quindi non ha nulla a che vedere con tifo. Bisogna che Platini capisca queste situazioni, perché non è che è diventato il Vangelo Platini, no, perché Platini il Vangelo esiste solo il nostro Signore Gesù Cristo, bisogna tagliarlo le condizioni specifiche. parte il regolamento da tagliare, io una settimana dopo continuo a sottoscrivere Pier Matteo Marani quello che aveva detto Lotito lunedì a questi microfoni, e poi vediamo la prova del prossimo weekend, vediamo anche cosa succede in settimana, perché la verità è che alla fine la Federcalcio deve cambiare le regole per evitare di essere sotto ricatto dalle curve, per evitare di arrivare a un fine settimana che poteva segnare, secondo me, il punto più basso della storia recente del nostro calcio. Vi chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi torniamo. Traffico. Se prima dei mondiali questo Totti ha questa condizione fisica, siamo obbligati a tenerlo in considerazione. Tutti convocati. 800 24 00 24, Pierluigi Pardo, Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Direttore, cosa ne pensi di Balotelli simbolo anticamorra? Lui oggi se l'è presa, ha detto: questo lo dite voi, io vado a Napoli soltanto per giocare a calcio. Io non so, l'ho detto all'inizio, se ha meno torto lui che se la prende, continua a scrivere su Twitter, o in questo caso ha meno torto la Gazzetta che questa mattina ha sparato in prima pagina Balotelli simbolo anticamorra. Ma sai, io credo che oggi chiediamo ai calciatori anche qualcosa in più di quello che gli spetta, perché la comunicazione ormai è schiacciante, dominante, non c'è nulla che comunichi con tanta suggestione, forza e vocazione come il calcio, soprattutto alcuni personaggi del calcio, per cui a volte le associazioni diventano anche un po' inevitabili, quindi se ci va la squadra, se ci va la nazionale a quarto diventa ovviamente un messaggio fortissimo. Secondo me da questo punto di vista io credo che Prandelli abbia dei grandi meriti, che poi molto è partito anche lui e la federazione stessa, insomma si sono mossi molto sul sociale in questi anni, forse come non ci eravamo mai mossi, però bisogna, io credo, non correre il rischio di cadere dall'altra parte, cioè di diventare poi retorici, perché il confine è molto sottile, cioè fra l'essere incisivi e come dire comunicativi e diventare retorici ci passa poca differenza, poco spazio, quindi bisogna stare attenti a questo e non cercare di caricare, secondo me, su spalle che magari non sono neanche in grado di reggerlo messaggi troppo ampi per loro. Sì, ti leggo Pier anche alcuni messaggi arrivati al 349 238 6666. Balotelli viene tenuto in ritiro per fare un dispetto a lui e al Milan, magari mettendolo in campo non in condizione e a rischio di infortuni, e sarebbe grave, questo scrive Aldo, perché poi c'è anche questo rischio, cioè c'è il rischio che Balotelli, che evidentemente non sta bene anche dal punto di vista fisico in questi giorni, magari possa saltare questo Milan-Udinese di sabato sera e allora apriti cielo. E poi Luca, perché Balotelli viene sempre tirato in mezzo, perché deve essere un simbolo anticamorra, perché lo si tiene in ritiro a forza anche se non sta bene, perché forse è una forma di punizione, ha ragione la Gazzetta dello Sport, non lo so. Guarda, una decina di giorni fa, quando ci fu, eravamo con Genza, credo fosse il giovedì della settimana scorsa, quindi quando c'è stata la notizia che sarebbe stato convocato e che quindi il codice etico non avrebbe trovato un'applicazione rigida per Balotelli, sì, a un certo punto diciamo sarebbe stato cancellato per Balotelli, esatto. Perché applicazione rigida è un eufemismo, dai Pier. Vabbè, no, ma è chiaro, però stavo a dirti, mi ricordo ci fu un ascoltatore che in minoranza assoluta mandò un messaggio dicendo che era quasi più punitivo essere convocato in una situazione di questo tipo piuttosto che non essere convocato. Io riportai questa cosa e, insomma, era una posizione di grande minoranza in quel momento, no? Dire che per due partite di questo tipo forse una convocazione nazionale era quasi più uno sgarbo che un regalo. Oggi mi sembra che qualcuno in più lo stia pensando, poi ci sono anche le condizioni di Balotelli che sono imperfette. Io ti dico, in assoluto secondo me si sbaglia ad attribuire a Balotelli un valore da testimonial contro la camorra, sbaglia lui probabilmente a non prenderselo, nel senso che poi una volta che la Gazzetta se ne esce così, ma tienitela quella, no? Sì, fai finta almeno di accettarla. Noi domani sera faremo una puntata nella quale, partendo dalla lotta alla camorra e dall'immagine simbolica di domani, racconteremo il calcio per strada, perché poi quello che secondo me è interessante nella giornata di domani è che il calcio torna per strada, torna sui campi che sono confiscati alla camorra, e sappiamo che il calcio nasce per strada, per tantissimi giocatori. Avremo alcune testimonianze di alcuni giocatori come Cassano, come Tevez, che ovviamente sono nati in un tipo di situazione di quel tipo e che entusiasticamente hanno dato la nostra idea. Magari altri non l'hanno voluto fare, però io sono d'accordo con Matteo, cioè non possiamo far, non possiamo trasformare i calciatori in filosofi. No, io però ho l'impressione che dietro questa cosa... Scusa, una cosa, posso intervenire? Sì, prego. No, io trovo, siccome stiamo parlando un po' del grottesco, prima parlavamo delle curve, io lo metto anche in relazione al codice etico, a parte che non sopporto più il termine codice etico, perché per scomodare l'etica, per spostare l'etica, credo che servano temi più alti della vita, del senso della vita. Francamente non per i comportamenti in campo di un calciatore, al massimo chiamiamolo comportamento disciplinare, ma poi è esso stesso, come dire, destinato a un'ambiguità continua, costante. Io credo che un commissario tecnico abbia diritto di chiamare o non chiamare, ma non come teorizzando e rendendo pubblico tutto questo dibattito su ciò che è etico o non etico, per cui se Osvaldo non prende la maglia, scusate, la medaglia, rincorre nel codice etico, altrimenti non ci ricorre Balotelli, che però ha offeso, ingiuriato e minacciato un arbitro in campo. Noi ci stiamo andando molto dietro tutti a questo tema del codice etico. Per me è assurdo però il dibattito. Sì, però direttore, perdonami, non siamo noi che abbiamo iniziato, nel senso che se un CT si presenta, no, detta le regole del codice etico, però qualcuno che gli dicesse scusi Prandelli, ma di cosa stiamo parlando? Cos'è il codice etico? Cioè, intanto ripeto, la parola roboante, è vero che oggi si vive in termini sempre superiori a quella che... ma cosa vuol dire il codice etico? Stiamo parlando di disciplina, di uno che si è comportato bene o si è comportato male. Lasciamo stare il codice etico. E siccome lui l'ha voluto teorizzare, a questo punto tutte le incongruenze presentiamole, perché secondo me in giro per il mondo, se sanno questa cosa del codice etico, si mettono a ridere. Marco dalla provincia di Firenze, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera. Prego. A voi e grazie di avermi dato questa possibilità. Dica. Un attimo fa ho sentito il direttore che ha detto una cosa che avrei voluto dire io, c'è la differenza tra codice etico e codice disciplinare, sul quale la dichiarazione del direttore mi trovo pienamente d'accordo in ogni passo, in ogni, diciamo, modo come l'ha descritta. Quello che mi dispiace, ecco, è che una volta di più non si rispettino nemmeno anche tanti altri buoni giocatori, senz'altro non del livello tecnico di Balotelli, ma che comunque, ecco, pur avendo un comportamento senz'altro disciplinare corretto, insomma, francamente non credo che a certi colleghi di Balotelli gli faccia piacere sapere che a lui gli viene anche permesso e concesso tutta una serie. Ha ragione, no. Marco, e ho anche l'impressione, letta tra le righe di questa settimana di nazionali, Marani, che ci sia anche un pochino, si stia un po' allentando questo rapporto fra Balotelli e il resto del gruppo. Non è una buona la pubblicità sentirsi ragazzi, dare dell'indispensabile. Posso dire, non voglio fare lo psicologo con quattro soldi, ma la forbice di interesse mediatico che esiste fra Balotelli e il resto della squadra è abbastanza clamorosa, ed è dal punto di vista tecnico, con tutta la stima che io ho per Balotelli, che tecnicamente parlando e soprattutto fisicamente è infinita, perché per me stiamo parlando di un fenomeno, di un giocatore che calcia il pallone fortissimo e che ha dei grandissimi colpi e può dare tantissimo, però insomma sì, però si esagera anche un po'. Cioè, in questa squadra qui poi ci sono Buffon, c'è Pirlo, c'è gente che ha vinto il mondiale, c'è gente che ha vinto gli scudetti, quindi poi sono tutti ragazzi secondo me intelligentissimi e capiscono perfettamente che poi ci sono delle regole mediatiche. Se Balotelli finisce sulla copertina del Time non è soltanto per il giocatore comunque importantissimo che è, ma anche per ciò che rappresenta, per il simbolo, per il fatto, certo, che comunque noi in Italia non siamo un paese storicamente multietnico, per cui una figura come questa ci fa, no, ci emoziona, ci divide, ci fa parlare, ci fa discutere. Quindi però però non bisogna capito, perché esagerare. Poi alla fine, c'è il GR, Pier, ti devo fermare, ti saluto, ci sentiamo domani? Volentieri, quando volete. Alle 14, ciao. Domani con Carlo Genta, tutti convocati, un saluto anche a Matteo Marani, grazie direttore. Buonasera a tutti. Adesso il GR. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, ci eravamo dimenticati la Serie B? No, non è vero, non ce l'eravamo dimenticati, l'avete sentito, non c'hanno cresta in testa, malgrado il pareggio in casa 1-1 contro la Ternana, 19 punti, poi Empoli e Cesena, Crotone a quota 16, Varese, Avellino 15, questa sera Palermo-Pescara, pensate, il Palermo che era partito malissimo, se questa sera vince sale a 14 dai confini della zona playoff. La Serie B è un campionato lunghissimo, difficile, un campionato che si decide tra aprile e maggio, non prima. 349-238-6666, alcuni messaggi che avete mandato. Balotelli va lasciato in pace, fino a quando il suo comportamento non danneggerà il gruppo non c'è bisogno di commentare i fatti suoi. Poi ancora, meglio un Balotelli con quella testa un po' così piuttosto che altri che invece hanno una doppia faccia. O ancora Luca, quanta falsa demagogia fate voi giornalisti, a 7 giorni da Juventus-Fiorentina vi preoccupate dei cori sull'Eisel sperando che vengano fatti per poi crearne una puntata. Ma di che cosa sta parlando Luca? Però mancano 5 giorni a Roma-Napoli, che è il clou del prossimo fine settimana, è il clou dell'ottava giornata del campionato di Serie A, anche se arriva presto, arriva venerdì sera, prima di tutti, Roma-Napoli. Prova a girarsi Gonzalo! Tuoni e fulmini e saette, scatena il dio della guerra e il vero figlio di Marte, sei tu, abbracciamolo tutti così, il cerchio della felicità. Avevamo convocato anche Carlo Zampa, che però ha detto che è in vacanza. Secondo me è tutta scaramanzia. Buonasera Raffaele Auriemma, la voce dei tifosi del Napoli. Ciao Raffaele. Ciao, buonasera a tutti. Scaramanzia secondo te quella di Zampa? Ma lui non è di Napoli, quindi magari avrei dovuto evitare io questo collegamento, ma invece... magari sarà in vacanza veramente il buon Carletto. E chi lo sa? Dimmi un po' qual è la temperatura di Napoli. C'è in mezzo alla partita della nazionale. Poi ti chiedo che cosa succede martedì sera, perché ho letto anche di un'accoglienza fredda verso la nazionale. Ma qual è la temperatura verso questo Roma-Napoli? L'hai detto, questa partita della nazionale è un po' raffreddato. Il clima pre-partita, perché si giocherà questa gara proprio al San Paolo e quindi ci sarà modo per vedere altro calcio prima di quel match. L'atmosfera è caliente comunque, perché ci saranno almeno 8.000 spettatori del Napoli allo Stadio Olimpico per seguire questa partita significativa, non decisiva ma molto importante per entrambe le squadre, soprattutto per dare conferma a quanto di buono hanno fatto fino a questo momento. Raffaele, è una partita scudetto per il Napoli, questa è la mia opinione, perché se dovesse uscire coi 3 punti da Roma l'impatto sarebbe di quelli forti. Non ma partita scudetto vince... in senso stretto, però io credo che sia una partita a cui il Napoli può solo guadagnarci. Sì, diciamo che il pareggio potrebbe essere il risultato utile per entrambi, però chi esce vittorioso da questa gara può sentirsi ancora più gratificato, crescere l'autostima verso quel tricolore che manca da tanto tempo sia alla Roma che al Napoli. Però ci sono altre squadre che inseguono, come la Juventus. Sì, ma non cominciare a farmi la lista delle 7 sorelle, che già sono 6 perché c'è il Milan staccatissimo. Io credo si parli di Napoli, di Juventus, adesso c'è questa partenza della Roma, e poi ci fermiamo lì per quanto riguarda l'elenco di chi può pensare allo scudetto. Ho letto che ci sarà Maradona a Roma, molto probabilmente venerdì sera. Che effetto fa? Io sono in contatto con il suo avvocato Angelo Pisani, il quale mi ha proprio chiamato l'altro giorno per dirmi che è molto probabile che ci sarà Maradona, perché arriverà proprio quella giornata lì in Italia e gli farebbe piacere seguire dal vivo questa partita. Fa un effetto particolare per i tifosi, ma credo anche per i calciatori. Uno su tutti, Gonzalo Higuaín, che è poi il suo pupillo, no? L'ha voluto in nazionale, l'ha portato ai mondiali, quindi credo che darebbe quella carica ulteriore ad una squadra che già ne ha abbastanza, perché immagino come saranno caricati a pallettone soprattutto quelli che non hanno partecipato alle gare delle nazionali, come Higuaín, Albiolo, stesso Zuniga, Maggio. Per cui secondo me chi ha qualcosa da perdere oggi è veramente la Roma. Albiolo, Zuniga, Maggio, Higuaín recuperano tutti? Al 100% Zuniga, Maggio e Higuaín. Per Albiol deve sostenere una ecografia tra domani e dopodomani, ma è solo di conferma, ma credo che ce la farà, perché anche lui ha superato questo problema fisico, muscolare, dovuto soprattutto al fatto che questi calciatori, Albiol, Higuaín, Zuniga, non hanno fatto lo stesso Maggio una preparazione precampionato così come gli altri compagni di squadra, quindi il gran numero di partite giocate in questo abbrivio di stagione li ha portati ad avere qualche risentimento, ma sono cose superabilissime e sono state già superate. Sì, non dimentichiamo che poi per il Napoli si apre un periodo di 3 settimane con 7 partite, una più importante dell'altra in campionato e in Champions League. C'è anche la doppia sfida con il Marsiglia che è decisiva per il passaggio del turno. Per chiudere, Raffaele, come verrà accolta martedì la nazionale al San Paolo? Ho letto sui social network e non solo di un'accoglienza freddina. Storicamente è difficile il rapporto tra Napoli e la nazionale italiana, lo è da Italia 90, probabilmente anche da prima, incidono tante cose. Che cosa succede martedì sera? Non lo so, però mi sa che non ci sarà tutto questo entusiasmo, perché il tifo di Napoli guarda sempre con un certo distacco le cose della nazionale, a partire da quell'Italia-Argentina del 90, sì, però anche per tutta un'altra serie di episodi che certamente i napoletani non hanno gradito. Però ci sarà come sempre correttezza, condivisione e sostegno, per un semplice motivo, perché la nazionale, ricordiamolo, che domani mattina sarà sul campo del quarto calcio, quello sottratto. Ne abbiamo parlato, è una bella iniziativa. Io ti dico la verità, Raffaele, a me piacerebbe che anche questa cosa della nazionale che a Napoli viene accolta con freddezza fosse superata, insieme a tante altre di cui abbiamo parlato e che abbiamo evidenziato in queste settimane e in questi ultimi giorni. Secondo me sarebbe anche arrivato il momento di chiuderla lì e di fare un passo avanti tutti. Vedremo come va martedì sera. Grazie a Raffaele Auriemma. Grazie a te, buon proseguimento di trasmissione. Grazie Raffaele, traffico. Sono così, ma non sempre vince il favorito. Tutti convocati. Intanto notizie dal mondo delle nazionali. Cuadrado torna, e lo abbiamo sentito direttamente dalla voce di Montella, è squalificato, quindi torna con un paio di giorni d'anticipo. Juventus che invece perde Isla per un problema muscolare alla coscia destra, ha preso un colpo, salterà la gara con l'Ecuador, ma a questo punto è a forte rischio anche per la trasferta di Firenze di domenica sera. Nulla da segnalare invece per quanto riguarda i nazionali di Napoli e Roma. Ha problemi muscolari anche Palacio, che potrebbe nelle prossime ore tornare a casa Mazzarri e vedere se in qualche modo potrà essere disponibile per la trasferta di domenica sera a Torino. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Balotelli, anche oggi si parla di Balotelli perché insomma non è piaciuto a lui, a me e a tanti altri essere indicato come simbolo anticamorra. Però se ci stai ti propongo un giro per i nostri ascoltatori. 800 24 00 24, Luca da Ascoli Piceno. Buonasera, grazie per lo spazio. Prego. Niente, non vorrei parlare di Balotelli, il mio intervento. Parli di quello che vuole, senza problemi. Stimolare era riguardo ai problemi degli stadi, dei tifosi, eccetera. Il punto è che secondo me, purtroppo, dico purtroppo perché parliamo di calcio, non è possibile inquadrare il problema se non lo guardiamo a più ampio raggio, ovvero rispetto al fatto che in questo paese di fatto ci sono delle regole fatte male e comunque sia non ci sono le strutture, gli strumenti per farle rispettare. Mi riferisco alla famosa certezza della pena, alle soluzioni soluzioni che vengono adottate, non ultimo al problema del sovraffollamento delle carceri, l'idea è quella di liberare le carceri, un po' come se lei, che ha troppi vestiti, invece di comprare un armadio li butta via. Ma non è questo il punto. Sì, restiamo al pallone. Esatto, non è questo il punto. Io ero allo stadio in occasione di Chelsea-Napoli dell'anno scorso. Sì. Ebbene, ero in un settore dove sapevo di non poter essere, perché ero nel settore dei tifosi inglesi, ma mi avevano detto comunque sia che se mi fossi comportato in una certa maniera io sarei stato rispettato e tranquillo. No, assolutamente niente, perché soltanto però i tifosi del Napoli, che come me tra virgolette si erano imbucati per guardare la partita, che hanno semplicemente esultato al gol del Napoli, sono stati allontanati. Sì, le è andata bene, perché il sistema inglese è rigido da questo punto di vista. Ma io secondo non me è anche sbagliato, eccessivo. Ma io non credo sia eccessivo, perché guardi, io stavo viaggiando in autostrada e con i tutor non ho visto nessuna macchina a più di 140 all'ora. Il problema è che noi non stabiliamo delle regole molto spesso sbagliate, perché chi le stabilisce onestamente credo che non le stabilisce. Sì, e poi in qualche modo siamo anche costretti a fare marcia indietro, cosa che del resto avverrà settimana prossima. Grazie Luca. Carlo, settimana prossima avverrà, perché il Consiglio federale ritoccherà quelle norme sui cori, sulla discriminazione, per non tanto per scongiurare la chiusura di San Siro, quello era la spia del problema, quanto per evitare di consegnarsi mani e piedi al ricatto degli ultra. Carlo. Sì, l'ascoltatore parlava di assenza di norme, poi siamo passati dal sovraffollamento delle carceri ai tutor, quindi un po' di cose. In realtà l'Italia è il paese che ha più norme al mondo, quindi di norme ne abbiamo fin troppe. Addirittura adesso siamo costretti a fare una normativa per regolamentare l'attuazione di norme che ci sono già, dunque non è un sistema di norme, è un sistema semplicemente di controcultura italiana, per cui deve essere per forza così. In questo momento gli ultra hanno utilizzato questa normativa e l'hanno utilizzata per ricattare le società, dunque come vediamo non è un problema di esistenza o assenza delle norme, è un problema di manipolazione delle norme, come in Italia avviene sempre. È semplicemente questo. Francesco da Fermo, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Buonasera. Il mio intervento desiderava mettere in risalto un pochino un aspetto, quello su un calciatore, Balotelli, che non lo ritengo ancora nelle condizioni di essere classificato tra i primi in assoluto, magari del palmarès di quei calciatori che possono fare la differenza. Nazionale e Milan hanno esagerato nel dare a lui un po' le chiavi delle possibili vittorie. Io penso che non sia neanche un granché di modello come ragazzo, e nello stesso tempo non ha vinto ancora nulla. Perciò che non abbia vinto ancora nulla, Francesco, ci sarebbe da opinare. Ha vinto Scudetti, ha vinto una Champions e l'ha vinta anche da protagonista. Però ha vinto anche una Premier, l'ha vinta con un'ottima stagione. Però sulla prima parte del suo ragionamento sono d'accordo, si è esagerato a dargli in mano le chiavi del destino, credo soprattutto della nazionale, Carlo. Sì, sai bene che io il nome non lo pronuncio, perché poi mi prendere imbrotti degli ascoltatori. No, ma al di là dello scherzo, mi sembra un gigantesco luogo comune questo. Cioè Balotelli non è vero che non ha vinto niente, ha 23 anni, è un grande giocatore, può essere protagonista. Che non sia un modello fuori dal campo, sinceramente me ne frega nulla, come ho detto molte volte, perché questi non devono, cioè non è il loro mestiere quello di essere modello per i giovani, o meglio è il nostro mestiere di genitori quello di dire guarda, non devi comportarti come quello lì. Sì, però hai sentito Allegri in settimana, Carlo, cominciare a dire basta con queste creste, orecchini, tatuaggi, bisogna essere anche dei messaggi positivi per quello che si è, a prescindere da come si gioca. Sì, poi Allegri è anche quello che ha piantato la sposa all'altare e si è rifugiato a casa di Galeone, quindi voglio dire, sai, sono ognuno, sì, ognuno fa quello che vuole, e fuori dal campo faccio un po' quello che crede, perché a queste cose io non mi presto e non mi inchino. Cioè io valuto i giocatori, valuto gli sportivi per quello che fanno sul campo. Certamente Balotelli è un giocatore ancora pieno di difetti comportamentali, ma sul campo che gli castrano un po' questo momento della sua carriera, in cui deve esplodere. Per la prima volta è protagonista nel Milan come in nazionale, mi sembra un altro gigantesco equivoco, quello di dargli dei ruoli che non devono essere suoi, lotta alla Camorra, ma di cosa stiamo parlando? Lui fa semplicemente il giocatore di calcio, giustamente ha detto, perché non è scemo, guardate, non datemi delle etichette che non sono mie, e ha fatto benissimo. Quindi deve fare il giocatore di calcio, è un personaggio che è famoso in tutto il mondo, perché non possiamo farci nulla se finisce sulle copertine dei più importanti giornali americani, se negli Stati Uniti la gente vuole la maglietta numero 45. Quindi dobbiamo accettare il fatto che sia un personaggio, è un grande giocatore, ha grandi margini di miglioramento, è ancora pieno di difetti, questo è quanto. Luca, dalla provincia di Latina, buonasera. Innanzitutto buonasera signor Capuano. Prego. Signor Pardo e signor Genta, buonasera a tutti. Dica. Niente, io volevo solo parlare sul comportamento di Balotelli. Allora, io ho 44 anni e quando ho fatto il militare c'era la disciplina. Sì, quindi, ma c'è anche adesso, Luca, eh? C'è anche adesso, prego. No, però la disciplina non deve coinvolgere tutto il gruppo, perché se uno fa... Balotelli mi sembra Cassano di qualche anno fa. Questo voglio dire solo. Sì, ma io sono d'accordo con lei, Balotelli sta rischiando come Cassano di dilapidare buona parte del suo talento, anche se Carlo, diversamente da Cassano, l'abbiamo detto, ha già raccolto cose che Cassano in carriera non ha mai raccolto e mai raccoglierà, però sarebbe un peccato vederlo, cosa che secondo me rischia, vederlo trascorrere così i suoi anni migliori, cioè a discutere di altro, di tweet, di fidanzate, di simboli, di mal di pancia, poi girano anche voci su perché lui vorrebbe lasciare in queste ore la nazionale. Evitiamo di riportarle, qualcun altro le ha anche fatte intendere tra le righe. Beh, è tutto un grandissimo peccato. Io comincio anche a leggere un po' di cattiva sopportazione da parte del gruppo, però Carlo dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità, poi c'è anche una bella sorpresa perché non parliamo soltanto di calcio oggi, dai, pubblicità. Io sono alla Juve, non avevo parlato di contratto, di niente ancora, quindi io sono contento alla Juve, faccio le cose bene e basta. E poi c'è Mino Raiola che pensa a tutto questo. Ah, c'è Mino, certo, c'è io che penso al calcio. Tutti convocati. 800 24 00 24. Carlo, che dici? Cambiamo un po' sport, basta parlare di calcio? Volentieri, passiamo al mio sport preferito. Anche perché oggi è una domenica importante, poi parliamo anche dei motori, perché di fatto si è chiuso il mondiale di Formula 1 questa mattina, anche se manca ancora l'aritmetica, e qualcosa di simile accade anche nella MotoGP. Oggi però è la domenica che parte il campionato di pallacanestro. Buonasera coach Pianigiani. Buonasera a tutti. Carlo, che dici? A me è un campionato che piace questo, è il campionato che arriva dopo un europeo che io continuo a considerare straordinario, anche se è finito malissimo. E io mi auguro, Pianigiani, e partiamo da qui, se lei è d'accordo, che questo campionato che si apre oggi sia un po' figlio di quell'europeo. Qualcuno ha scritto sarà il campionato di Hackett, di Polonara, di Gentile, di una nuova generazione di giocatori italiani che hanno classe, hanno talento, sapranno farsi amare. Io è fin troppo facile, mi auguro soprattutto che sia un campionato dove si cerca di andare oltre i propri limiti. Questo potrebbe essere il tema di che ci collega a quest'estate, lo sforzo comune di fare qualcosa in più oltre una crisi oggettiva che c'è dal punto di vista economico, di mezzi che le nostre squadre, i nostri club devono fronteggiare. Però questo deve essere un motivo per chiudersi, mantenere un'asticella alta, perché in Italia la pallacanestro, come dire, la sappiamo fare, gli allenatori sono tra i migliori d'Europa e i giocatori devono volersi ritagliare uno standard europeo. Quindi credo che da questo punto di vista abbiamo visto che se c'è questo sforzo comune, c'è una grande partecipazione anche emotiva degli appassionati, quest'estate l'abbiamo visto, c'è una fame di pallacanestro, di gente che ha voglia di identificarsi in questi ragazzi, per cui speriamo che il campionato prosegua da questo punto di vista, su quest'onda emotiva e di crescita. Sì, perché quest'estate è riscoppiato un po' l'amore con la nazionale, che poi significa, come per tanti altri sport, l'amore con la pallacanestro. Carlo? No, sì, io volevo, a me tocca sempre il compito delle domande difficili, lascio stare l'europeo, per cui sono d'accordo, è stato un successo, l'europeo è stato un successo italiano perché è stata una grande dimostrazione di, delle nostre potenzialità e delle nostre capacità di fare pallacanestro, e qui ha ragione Simone Pianigiani. Abbiamo sbagliato una partita sola, quella con l'Ucraina, ci sono delle attenuanti generiche che sono quelle relative al fatto che uscivamo da quella partita con la Lituania e quest'altra arrivava a stretto giro di posta, nemmeno 24 ore. Però questo ormai è commento. Passando invece alla cronaca, io ho detto, mi tocca il compito delle domande difficili e lo so, Simone, la polemica anche a Petrucci, perché io voglio dire, sono grosso modo d'accordo con il presidente Petrucci, perché a me faceva specie durante gli europei e vedervi in sofferenza, vedervi dare tutto e vedere anche che giocava le amichevoli con la Melsana. Ma guarda, questa secondo me si è parlato tanto, insomma c'è una situazione che è nata male, nel senso che pensavamo che Daniel potesse esserci, lui stesso era venuto con noi e diceva che sarebbe stato il suo obiettivo, aveva questo problema al tendine che sicuramente era condizionato, e da lì in poi ci sono state magari delle problematiche di comunicazione, però quest'estate è andata così, nel senso che poi alla fine il giocatore credo che abbia cominciato a giocare le amichevoli con tempi oggettivamente diversi da quelli che servivano a noi. Io sono ovviamente assolutamente convinto come presidente Petrucci che, come ragionamento generale assoluto, la nazionale è tutto, nel senso che non puoi quando hai la possibilità di vestire questa maglia, sei l'esempio per le nuove generazioni, per i ragazzini, per quello che rappresenta, che c'è dietro, che abbiamo visto, di passione e tutto quanto, non puoi mai tirarti indietro ed è una cosa che ti devi proprio sentire cucita addosso. Quindi su quello credo che siamo d'accordo tutti quanti, e che poi i giocatori, io dico la verità, quelli che sono stati in queste estati, quando ci sono stati, Degna c'è stato l'estate precedente, l'ho visto dare tutto, credo che poi dovremo sempre di più ottimizzare la gestione dei giocatori per 12 mesi, e noi lavoriamo anche da questo punto di vista adesso, intensificando da quest'anno i rapporti con i club per lo scambio di informazioni mediche, per le terapie, perché i giocatori siano per 12 mesi monitorati sia dallo staff azzurro sia dai loro club quando sono in nazionale, perché si condivida delle linee che tutelino la loro salute nello stesso tempo e che li rendano performanti per tutto il periodo, perché questo è quello che oggi un giocatore moderno deve fare. Quindi faremo il più possibile su questa linea perché ci siano sempre meno incomprensione. Pianigiani, mi sembra, cioè leggendo tra le righe di quello che ha detto, che secondo lei la storia di Hackett con la maglia azzurra non è finita quest'estate. Ma la storia di Hackett con la maglia azzurra, come di qualsiasi altro giocatore che potenzialmente per qualità, per capacità la può indossare, non è finita mai nel momento che un giocatore vuole giocare in nazionale, perché se poi se un giocatore ha la vera volontà di giocare in nazionale, la nazionale non chiude le porte a nessuno, tutte le situazioni sono ripeto di volta in volta valutabili, ma ci deve essere questo tipo di atteggiamento di fondo, e poi si viene in nazionale accettando chiaramente, ma come è credo logico e doveroso, un certo tipo di, chiamiamolo codice, che magari non è scritto e dettagliato, ma che sanno perfettamente tutti quanti, per cui ci si va in un certo modo. Se un giocatore ha questo tipo di volontà, è un giocatore di grande qualità, nessuno sta a chiudere le porte, questo è ovvio. Certo, parliamo un po' del campionato, Giovanni, Carlo, dimmi. Scusami, posso intervenire? Sì. No, mi sembra molto interessante quello che dice l'allenatore della nostra nazionale. insomma, siamo passati da un momento in cui sembrava quasi che le nostre star dell'NBA venissero a giocare per farci un favore, ad un momento in cui, diciamo, noi siamo una nazionale, abbiamo fatto questo tipo di europeo, abbiamo fatto un europeo da grandi, adesso, signori, se volete venire a giocare con noi rispettate le nostre regole. Questo mi sembra molto importante, perché le vere grandi superstar della pallacanestro mondiale, ultimo tra i quali o primo tra i quali Tony Parker, che ha portato la Francia a vincere l'europeo, hanno sempre fatto questo tipo di percorso, e quindi questo mi sembra estremamente interessante ed estremamente importante. Adesso guadagnare la maglia azzurra, c'è la maglia azzurra anche per Gallinari, Bellinelli, Bargnani, Datome, Hackett, non è un diritto divino, ma è qualcosa che ti devi conquistare, è così, Simone? Ma guarda, noi l'abbiamo fatto non solo in virtù di un europeo che è andato oggettivamente oltre le aspettative per mille motivi, ma fin dalle qualificazioni dell'estate precedente abbiamo detto che eravamo in un momento di emergenza nazionale per quello che riguarda le potenzialità in questo momento, perché avevamo poca esperienza europea, lo sappiamo, insomma tutte le cose che ci siamo detti, pochi giocatori che facevano le coppe e gli altri nell'NBA con una pallacanestro oggettivamente diversa, poca taglia fisica o ruoli non proprio tutti sistemati, ma molti anche da inventare adattandosi da parte dei giocatori a fare cose diverse. Abbiamo detto però partiamo da un modo che vogliamo che sia chiaro, di stare insieme, di condividere, di provare a costruire qualcosa, non a parole come si dice sempre, ma con spirito di squadra vero, mostrando un atteggiamento per due mesi di ritiro, condividendo che è l'unico modo possibile per provare a rialzare la testa, a tornare a essere competitivi. E se questo è, allora avremo magari l'estate successiva la voglia di ritrovarsi di nuovo, di andare in nazionale per condividere questo modo di lavorare etico giorno dopo giorno, per provare a fare più strada possibile. Devo dire che fin dall'estate scorsa, e l'ho anche detto pubblicamente prima di vincere le 8 partite consecutive della qualificazione o di vincere le prime 5 di questo europeo, questi ragazzi stavano giorno dopo giorno mostrando questo, e questa è una cosa importante, perché su quello, se noi ogni estate ci ritroviamo da questo punto di vista e più, sempre più giocatori possibili entrano, condividono questo atteggiamento nel Club Italia, allora poi l'allenatore può scegliere quello che può essere più funzionale, le cose si vedono, ma quella deve essere la base. Se uno da questo punto di vista non ci sta, questa è la storia, insomma, nella pallacanestro moderna in Europa, se non sei questo hai poche possibilità di chance, la maggior ragione noi, perché ripeto, ancora abbiamo dei gap da colmare, ma abbiamo visto fino a quest'estate che anche nazionali molto più coperte, esperte e blasonate, se poi non sono al 100% su questo tipo di presenza, poi possono inciampare come hanno fatto contro di noi. Mi piace molto questo discorso, perché di codice ha usato anche la parola etico, ne ha parlato anche un suo collega come Prandelli in questi anni, un discorso che non sempre forse è stato capito. Carlo, abbiamo ancora un minuto, poi lo dobbiamo salutare, c'è il traffico. Provo io a fare la griglia di partenza di questo campionato, poi vediamo se mi correggete. Milano Sassari, Siena, poi forse Varese, Cantù e Roma. Coach, Brevemente, sì, Milano è sulla carta ovviamente favorita perché anni che la società ha programmato al vertice, per stare al vertice, che è posizionata su, e quindi può essere l'anno buono, anche perché è una squadra molto profonda, molto fisica, una fisicità anche europea. E questo può essere, però è un campionato in Italia, vincere non è mai facile, sarà molto equilibrio, parlare anche sulle altre non è semplice oggi, perché abbiamo detto tanti cambiamenti figli della congiuntura economica, roster profondamente rinnovati. Credo che fino a febbraio sarà difficile almeno la Coppa Italia vedere chi avrà la continuità, la forza mentale, chi avrà trovato la chimica giusta, che poi come sempre sono cose che fanno la differenza. Però può essere un campionato di nuovo equilibrato e sicuramente interessante. Fa effetto, Carlo, quella Siena che forse davvero quest'anno per la prima volta non parte in prima fila, c'è l'effetto della crisi, tante cose che sappiamo, Carlo. Sì, io voglio solo salutare il coach e ringraziarlo pubblicamente per quello che hanno fatto gli europei. Per il resto sono ovviamente più estremo rispetto a Simone e dico che se Milano non vince questo scudetto sarà uno dei più grandi fallimenti della storia recente della pallacanestro italiana. Luca Banchi è la persona giusta e poi la salutiamo. Ma sì, Luca è un grande conoscitore di pallacanestro, un grande lavoratore e arriva là con grande convinzione, per cui credo che da questo punto di vista insomma l'Armani ha tutto, è un grande club, ha uno staff tecnico adeguato e giocatori importanti, però ripeto, poi c'è il campo, vincere in Italia alla fine non è mai semplice e credo che quest'anno in molti proveranno a dargli fastidio, però ripeto, capire le potenzialità degli altri adesso non è facile, le dovremo scoprire strada facendo e vedere se saranno veramente poi competitivi a giocare anche il secondo campionato, cioè quello che si gioca durante playoff quando giochi ogni 48 ore a giugno al caldo dopo 8-9 mesi, e lì la profondità di roster, insomma tante cose, ma sarà un'altra cosa, lì bisognerà vedere chi potrà reggere quei ritmi tra qualche mese. Abbiamo visto anche quest'anno che è un'altra pallacanestro. Grazie coach. Grazie a voi. Grazie Simone Pianeggiani. Carlo, c'è il traffico, poi ti riaggancio, traffico. Tre trofei per mister nessuno vuol dire tanto per me. Tutti convocati. Ha scritto un amico al 349-238-6666, Pianeggiani parla come un politico, da sportivo non lo accetto, Massimo, non mi sento di sottoscriverlo, anche se vale ovviamente per Pianeggiani così come vale per Prandelli. Carlo, per me la parola etica applicata a un codice interno che regola la vita di una nazionale, a me quella parola fa venire i brividi, però Pianeggiani ha fatto secondo me un discorso abbastanza chiaro, altro che parlare come un politico. No, ma Pianeggiani è uno molto equilibrato, è anche molto diplomatico se vogliamo, politico direi di no. Sono d'accordo con te sul fatto che etico, etica, sport nazionali eccetera sia un argomento molto scivoloso, molto pericoloso, però Simone è uno che ha le idee chiare, quindi poi sul fatto che sia sufficientemente diplomatico per girarci intorno qualche volta, vabbè, questo è indiscutibile, non accetto però il fatto che parli come un politico e soprattutto non agisce come i nostri politici. Intanto siamo a metà del secondo quarto, prima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro e Milano è sotto di 11 a Brindisi, 32-21 al quindicesimo minuto, segno che sarà anche favorita, ma la partenza è certamente difficile in salita anche per Luca Banchi come per i suoi predecessori. Gli altri risultati, c'è Reggio Emilia che sta vincendo 31-26 a Varese, c'è Siena che è avanti di 9-41-32 contro Cremona, c'è Cantù avanti 38-32 contro Pistoia, poi Caserta 25-14 su Venezia, Pesaro che sta vincendo 33-30 ad Avellino, partita però equilibratissima, avanti di 11 invece Roma sul campo di Montegranaro 37-26, questa sera Bologna-Sassari. Angelo Dalodi, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera. No, volevo intervenire, mi spiace su Balotelli perché mi ero presentato per quello. No, volevo dire tre cose, perché francamente io sono stufo di sentire sia Capuano, lei, sia Genta, ma non per interessi chiaramente, portate a sponsorizzate l'atleta Balotelli. Noi allora, sponsorizziamo Balotelli? No, sponsorizzate, portate avanti. Di Balotelli. Parliamo di Balotelli. Sì, ah, okay. Esatto, mi scusi. No, ma infatti io volevo dire che non lo fate per interesse. No, ci mancherebbe. Però volevo dire, ma che sia finita sulle copertine della stampa internazionale, compreso Times, non è certo per i gesti atletici, o comunque perché è uno sportivo, ma per tutto quello che fa al di fuori, gli atteggiamenti che ha al di fuori di quello che è i campi sportivi. Prima cosa. Seconda cosa, io sfido chiunque a dire che quello che ha vinto Balotelli, le squadre che ha giocato Balotelli, Inter e City, l'abbiamo vinto perché Balotelli abbia dato un suo contributo, perché francamente all'Inter era una riserva e neanche la prima, nel City quando ha vinto il campionato, francamente il contributo è stato quasi un pochino superiore. Mi riservo, Angelo, di non essere d'accordo, però chiudiamo. prego. No, esatto, esatto. La terza cosa, chi ha dato adesso le mani della squadra, cioè il Milan, ha capito che francamente lui è comodo in mezzo all'area, perché comunque se cade 10 volte un rigore glielo danno. Vabbè, mi sembra un po' cattivello però, Angelo, con tutti i difetti che ha Balotelli. Saluto anche Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Carlo. Ciao, buonasera. Buonasera, direttore. Prego, Carlo. No, c'è par condicio, gli ascoltatori saranno stufi di sentire noi che sponsorizziamo Balotelli. Io sponsorizzo Balotelli come giocatore di calcio, perché secondo me è fortissimo ed è un patrimonio della nostra nazionale. Loro saranno stufi di sentirmi che sponsorizzo Balotelli, permetti di dire che io sono stufo di sentire loro che dicono cazzate. Perché? L'hai toccata allora, pianissimo, se Carlo. Diciamolo. Se c'è par condicio, diciamolo, sono stufo di sentire loro che dicono cazzate, perché quelle che ho sentito adesso sono cazzate. Sì, c'è secondo me tante cose che non sono corrette in quello che abbiamo sentito, Carlo, a partire dal peso di Balotelli in quello che ha vinto. Ti saluto, Carlo, appuntamento domani, 14.05, tutti convocati, compie Luigi Pardo. Umberto Zappelloni, ci rifugiamo nel nostro angolino dei motori. Sì, ma se vuoi, su Balotelli bisogna dire che purtroppo bisognerebbe spogliarsi della maglia che si veste come tifoso e giudicarlo per quello che è, insomma. Gli interisti adesso probabilmente non lo sopportano, men che meno gli juventini. Però non dimentichiamo che all'europeo la nazionale ha fatto delle buone cose, anche perché Balotelli ha fatto giocatore di calcio, ha giocato in un certo modo. Sì, oggi se l'è presa direttore. Oggi se l'è presa direttore col tuo giornale, sì, per quel titolo. Non aveva capito il titolo, probabilmente. Succede quello. Balotelli è un grandissimo giocatore quando pensa soltanto a giocare a calcio. Poi credo che con quel tweet non si sia spiegato bene, non abbia capito esattamente a che cosa ci riferivamo noi, insomma, perché in fin dei conti lui è un simbolo di tante cose. E però se ieri è stato male non è colpa nostra, insomma. Se l'altro ieri non ha giocato e aveva la febbre, non è colpa nostra. Quelli sono dati di crona. Abbiamo i nostri 3 minuti per i motori. Oggi era una mattinata che prometteva molto, in realtà poi ci ha lasciato con pochino in mano. Sognavamo con Valentino Rossi ed è arrivato quarto, come tradizione in questa stagione, se gli altri tre restano in piedi. A me non è piaciuta nemmeno la Ferrari di Messa, è questione soltanto di un paio di settimane per Vettel. Due quarti posti con molta malinconia per Alonso, perché la Ferrari non c'è più, la Ferrari ha finito il suo campionato purtroppo già a metà stagione, poi c'è stato qualche buon espoa suo, ma la macchina non ha più avuto gli sviluppi necessari ed è naufragata, è oggi arrivata a 40 secondi. Valentino purtroppo è il quarto non soltanto sulla carta, ma anche materialmente dei tre che gli stanno davanti. Pedrosa, Marquez e Lorenzo sono più veloci di lui, ormai bisogna rassegnarsi a questo. Lui potrà inventarsi ancora qualche gara straordinaria, gli è riuscito quest'anno in Olanda, però obiettivamente il Valentino del 2013 non è il Valentino di qualche anno fa, e ci sono tre che vanno più veloci di lui, che ne hanno di più, insomma. Questo non c'è dubbio. Non è lo stesso discorso di Alonso, perché Alonso ha la macchina che non è sul viale del tramonto. Lui sul viale del tramonto, ma Valentino è stato un pilota straordinario, credo il miglior pilota della storia del motociclismo, se Agostini ce lo permette, ma in questo momento ce ne sono tre che vanno più veloci di lui, perché hanno più voglia, perché sono più giovani, perché sono Marquez e quello che era Valentino 10 anni fa. Sulla Ferrari del futuro, siamo autorizzati a qualche cattivo pensiero vedendo Raikkonen che prende più di mezzo minuto da Grosjean, compagno di squadra? Raikkonen ha infilato 3 bruttissime gare da quando è diventato ferrarista, perché sono 3 Gran Premi che parte sempre dietro a Grosjean. Il dubbio grosso sulla Ferrari dell'anno prossimo, a parte che cambieranno tutte le macchine, quindi speriamo che la azzecchino una volta tanto, però è che in qualifica Alonso e Raikkonen non hanno in qualifica il punto forte, perché Alonso spesso sbaglia il giro fondamentale per andare in pole. Raikkonen anche lui non ha la sua lotta migliore in qualifica, quindi si rischia con una macchina che in qualifica ha pagato tantissimo in questi anni, sono più ormai di quasi 500 giorni che Alonso non parte in prima fila, che l'anno prossimo la Ferrari abbia un piccolo handicap. Certo, poi come gestiscono la macchina in gara Alonso e Raikkonen sono straordinari, però devono avere una macchina che possa essere gestita in un certo modo, se no rischiamo di vedere Vettel al quinto titolo mondiale, visto che il quarto ormai ce l'ha in tasca. Sì, e poi c'è l'incognita di che cosa accadrà in estate, perché cambiando le regole cambierà davvero tutto. Grazie ad Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buona serata. Grazie ad Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Noi abbiamo finito, ci fermiamo qui. Io ringrazio ancora e saluto Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte e Valeria Bernardi dietro il vetro. L'appuntamento con Tutti i Convocati è per domani, a partire dalle 14 fino alle 15:20 con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Noi invece torniamo domenica alle 17, ci saremo anche per Gennaro, che scrive: Capuano, neanche a Radio Marte saresti buono, sei falso mascherato da napoletano, ma sei un cafone di Capua. Gennaro, tranquillo, ci vediamo domenica.